Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, benvenute e benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, la cultura, la filosofia, i piaceri della vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 674 e parleremo dell'odio presente verso gli animali selvatici, dell'insana esaltazione della violenta cultura della caccia, del pericolo delle zoonosi, di un libro che affonda l'analisi sul capitalismo carnivoro. La colonna sonora della puntata e la ricetta della settimana, l'ultima del 2022, sono a cura di Gabriele Palloni. Via libera alle doppiette. Il governo Meloni e la nuova maggioranza di destra non si sono smentiti e con un emendamento alla legge di bilancio hanno deciso di sposare in toto le tesi di cacciatori, allevatori e agricoltori per affrontare quella che viene chiamata emergenza selvatici. E quindi via libera alla caccia detta di selezione, in deroga a buona parte delle norme che disciplinano i modi di uccisione legale degli animali liberi. Si potrà sparare ai cinghiali, ma non solo ai cinghiali, nelle aree urbane, nelle zone protette e senza limiti temporali. Lo scopo dichiarato è difendere produzioni, coltivazioni e centri abitati dalla pressione degli animali selvatici. Qualcuno, criticando il provvedimento, ha parlato di caccia selvaggia. Ministri e sottosegretari correggono però il tiro e dicono che sarà una caccia disciplinata e che si tratta di una misura che vede concordi tutte le regioni. In effetti non si tratta di un provvedimento così nuovo, per quanto in alcuni aspetti sia la norma più radicale mai vista, per esempio nel punto in cui non limita le uccisioni agli ungulati, aprendo la via all'eliminazione di animali come lupi e orsi, che pure sono protetti dalle leggi nazionali ed europee. Dicevamo che non è del tutto una novità questo provvedimento preso dal governo Meloni, se si pensa che una misura simile fu presa dalla regione toscana ormai 6 anni fa, anche lì con l'intento dichiarato di ridurre drasticamente la popolazione di cinghiali, attraverso una mattanza di decine di migliaia di individui. Sappiamo com'è andata, non è cambiato niente. I cinghiali sono più o meno gli stessi di prima, i danni all'agricoltura si sono ridotti solo laddove le coltivazioni siano state protette adeguatamente, con recinti e simili. Lo dicevano del resto gli animalisti e lo dicevamo anche noi, all'epoca della legge voluta dall'assessore toscano Remaschi, che l'uso delle doppiette non produce i risultati voluti, sia perché i cinghiali sono animali mobili, che riempiono eventuali vuoti creati da un episodico massacro, sia perché la specie si difende aumentando la fertilità delle femmine. Se messi sotto pressione demografica, i cinghiali si riproducono più in fretta. Nessun risultato concreto, dunque. Ma la misura di allora della regione toscana e questa del governo Meloni hanno un grande pregio. Soddisfano la sete di vendetta, lo spirito di aggressione, la credenza in soluzioni sbrigative ed hanno dunque un forte valore simbolico ed emotivo. In più, e non è cosa da poco, prolungano all'infinito lo stato di allerta permanente e la militarizzazione del territorio. Una grande soddisfazione per la triste ma vincente lobby dei cacciatori. Preoccupa, dicevamo, l'allargamento potenziale della facoltà di uccisione ad altre specie oltre ai cinghiali, animale simbolo questo dell'odio corrente per i selvatici, e c'è da aspettarsi un fioccar di ricorsi alle corti europee e ai tribunali, semmai si passerà davvero all'uccisione di orsi, lupi e altri animali considerati ormai come dei nemici. Il maggiore partito di governo, che sta conducendo questa battaglia prettamente ideologica, ha già chiesto di declassificare la protezione del lupo, che al momento ha rango di direttiva europea. È doverosa un'ultima considerazione di tipo politico e filosofico. Viene da chiedersi perché tanto accanimento contro gli animali selvatici, anche in spregio delle conoscenze etologiche, ambientalistiche e dell'esperienza concreta già nota. La sensazione che i selvatici siano così detestati perché sono fra i pochi individui veramente liberi della nostra società. Non vivono in un clima di condizionamento e di ammaestramento che accomuna noi umani nella società presente. Sono un esempio vivente di ciò che non riusciamo più ad essere. E così l'odio del potere si concentra su di loro, col consenso, almeno apparente, dei poco liberi cittadini. Per quanto ci riguarda, staremo sempre dalla parte dei selvatici e del loro diritto alla vita e alla libertà. Sai, sai, sai! Spara serpente della prima mela, che ruba la forza a chi lo musica mi cambia la pelle, ma il paradiso è un'astuta cucina. Tutte le vite per prima la mia, e voilà! A proposito di caccia e del fervore di ritorno che la circonda in questa fase di regresso politico-culturale che stiamo vivendo, merita una segnalazione una notizia che arriva da Fortigo, località compresa nel comune di Sernaglia della Battaglia, in provincia di Treviso. Si tratta di un albero di Natale decorato con oltre 1000 cartucce da caccia esplose. La realizzazione, insieme a un gruppo di bambini del posto, è stata curata dai cacciatori di Sernaglia e dall'associazione Cacciatori e Bimbi di Falsè di Piave. Si tratta evidentemente di un intervento, diciamo così, di formazione delle nuove generazioni ai pretesi valori della caccia, con un gusto necrofilo che non può che inquietare. Secondo Giacomo Bottinelli, responsabile dell'ufficio scuola della LAV, si tratta di una iniziativa che vorrebbe, nei suoi discutibili intenti, sensibilizzare i ragazzi ai temi del riciclo e della ecosostenibilità. Il paradosso di questo macabro albero, dice Bottinelli, è che la caccia non ha nulla a che fare con l'ecosostenibilità, tanto che le cartucce che lo decorano sono le stesse fatte esplodere dai cacciatori contro animali innocenti e molto spesso lasciate a inquinare boschi e campagne. Le cartucce sull'albero celebrano del resto inequivocabilmente la morte, quando il Natale dovrebbe essere una festa di vita e rinascita. In aggiunta che si promuova fra i bambini la caccia, dice la LAV, è assolutamente diseducativo e contrario a ogni corretta pedagogia, perché promuove la violenza contro gli animali e l'uccisione per divertimento di esseri senzienti. Club, don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocket, burning up with a good ass feel to the beat. A beat of a song, a song, song, a buzzing in my head like a bomb, dog. A bit of a song, song, a buzzing in my head like a bomb, dog. Listen to the beat, bit of a song, song, a buzzing in my head. Una brutta notizia arrivata dalla Tunisia ci fa capire perché tante specie animali, anche marine, siano in via di estinzione. La prendiamo dal giornale Il Messaggero, che pubblica anche una drammatica foto di uno squalo bianco portato fuori dall'acqua da un gruppo di pescatori con una grossa pala meccanica. È un esemplare lungo 6 metri e del peso di 2 tonnellate. Lo squalo bianco è una specie protetta e non è chiaro come sia stato in questo caso ucciso. Di certo c'è che una volta portato a riva è stato eviscerato e fatto a pezzi per consumarne le carni, secondo una pratica purtroppo ancora assai diffusa. La caccia allo squalo bianco ha portato ormai vicini all'estinzione di questo animale nel Mediterraneo, come del resto sta avvenendo anche in tutti i mari del pianeta, divenuti territori di caccia indiscriminata e feroce, oltre che senza senso, nell'ottica stessa della pesca, col progressivo e inesorabile depauperamento dei mari. I ricercatori del sudafricano Ocean Research Institute mettono in guardia con una punta di rassegnazione. Reti antisqualo e pesca non sostenibile, dicono, stanno decimando e affamando gli squali, quello bianco compreso. Should we have one last round and then we'll call it a day. Four young men so full of life. Leaving behind four young wife, four young men drinking from the bottle. Say please ease off the throttle, my loving son, I'm forever sad. My only brother, my loving dad. You up there and the mess down here, I can't help but shed a tear. Four missed calls with no reply, four empty glasses sitting at the bar, four vacant seats at Sunday mass, four idle seatbelts in the car, four brown boxes laid in a line, four white roses tied in a knot, 4 years later what's the show, just one black spot. Abbiamo parlato molte volte delle zoonosi, soprattutto all'inizio della pandemia da coronavirus e nei mesi più duri del contagio, quando ci si interrogava sul dopo e sui rischi a venire. Passata la fase più calda, dimenticati i picchi di ammalati e morti, è tutto passato in secondo piano. Ma le zoonosi, cioè i passaggi di agenti patogeni, come certi virus, dagli animali selvatici alle persone umane, sono sempre in agguato. Sono legate, come ben sappiamo, all'eccessiva pressione antropica sugli ecosistemi, a un'insana vicinanza fra animali selvatici, animali da allevamento e persone umane. Ebbene, nel 2021 sono aumentati nei paesi dell'Unione Europea i casi di zoonosi. Per quanto riguarda l'Italia, la salmonellosi si conferma nel 2021 la zoonosi con il maggior numero di casi notificati, seguita da campilobatteriosi, listeriosi, infezioni da Staph, yersiniosi e brucellosi. Rispetto al 2020 l'aumento dei casi è stato particolarmente marcato per la salmonellosi, più 38,9%, infezioni da Staph più 44%, listeriosi più 55%, yersiniosi più 66% e brucellosi più 77%. Tutti questi dati sono contenuti nel rapporto One Health delle zoonosi del 2021 dell'Unione Europea. That's a magic number. It's the magic number. Somewhere in this hip-hop soul community was born three, they stubbed me, and that's a magic number. What does it all mean? Difficult preaching is posthumous pleasure. Pleasure in preaching starts in the heart. Something that stimulates the music in a measure. Measure in the music, racing three parts. Casually see, but don't do like the soul. Cause seeing and doing are actions for monkeys. Doing hip hop, hustle, no rock and roll. Unless your name's Brewster, cause Brewster's a punk. Parents let go, cause it's magic in the air. Criticizing rap, shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrase and Fred Astaire's. And don't get offended while Mace Do-Si-Do's your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound. Y'all and y'all can bet that the action's not a trick, but show me the function. Everybody wants to be a DJ, everybody wants to be an MC, but being speakers are the best, and you don't have to guess. De La Soul Posse consists of three, and that's the magic number. Three. This see a piece of the pie. It's not dessert, but the cost that we dine. And three out of every darn time, the effect is, where the daisy grows in your mind. Showing true position, this here piece is kissing the part of the pie that's missing, where that negative number fills up the casualty. Maybe you can subtract it, you can call it your lucky partner, maybe you can call it your adjective. But odd as it may be, without my one and two, where would there be my three mates passing me? And that's the magic number. What does it all mean? Focus is formed by flaunt of the soul. Souls before style gain praises by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners listen, cause this here is wisdom. Wisdom of a speaker, a dove and a plug. Set aside a legal substance to feed them for now. Get them high off this dialect drug. Time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't do the hustle. Shake, rattle, roll to my magic number. Now you may try to subtract it, but it just won't go away. Three times one. What is it? Il titolo, Capitalismo Carnivoro, è coraggioso e preciso. Preciso perché Francesca Grazioli, in questo volume edito dal Saggiatore, indaga la filiera di produzione della carne e non fatica a individuarne i tratti salienti. Lo sfruttamento della vita animale, anche di quella umana, sia pure in altre forme, come asse portante, la logica del profitto, spinta fino alle sue più estreme conseguenze, l'impressionante concentrazione proprietaria in poche mani, il disinteresse per ciò che gli economisti pudicamente chiamano esternalità negative, ossia l'abitudine ad agire distruggendo e inquinando, senza alcun rimorso. Il titolo è anche coraggioso, perché la sola evocazione della parola capitalismo in Italia suscita irritazione, specie se del capitalismo si parla in termini necessariamente e fortemente critici, come in questo libro. È noto che l'ideologia neoliberista, al momento dominante, nonostante i disastri compiuti e la sua assenza di prospettive di lungo, ma anche di medio periodo, ha la pretesa di presentarsi come l'ordine naturale delle cose e di tacciare come ideologiche ed estremistiche le posizioni di chi osa mettere in discussione, fin nelle sue radici, ideologiche appunto, lo status quo. Dunque, Capitalismo Carnivoro è il titolo di un libro che pure, come vedremo, non manca di fare alcune concessioni al sistema, se vogliamo chiamare così quel clima mediatico, culturale, ideologico, politico, che permea le nostre vite e soprattutto il dibattito o il non dibattito pubblico. Grazioli è una professionista nel campo della lotta al cambiamento climatico e della sicurezza alimentare e lavora per lo più all'estero al centro di ricerca Biodiversity International. Il suo libro mette a nudo le origini stesse dell'industria alimentare e della produzione di carne in particolare, prima e più efficace applicazione, al di fuori dell'automobile, del sistema collaudato da Henry Ford nelle sue fabbriche novecentesche. Il continente della carne, come Grazioli dimostra con grande mole di dati, documenti, ma anche racconti, è un universo di violenza, di indiscriminata violenza fisica, ma anche genetica, potremmo dire scientifica, visto com'è organizzato il sistema degli allevamenti e di smontaggio degli animali. Ed è anche un sistema di manipolazione politica e di enorme potere economico. Sono numerose le leggi che avvantaggiano la lobby della carne e poderose, addirittura fatali per la possibilità di superare la crisi climatica in corso, le cosiddette esternalità negative. Grazioli non esita ad accostare le condizioni di vita nei macelli intensivi a ciò che il giornalista Upton Sinclair, oltre un secolo fa, descrisse nel suo memorabile libro reportage La giungla, non a caso realizzato nei mega macelli di Chicago, luogo di prima e definitiva applicazione del modello fordista, la catena di montaggio delle automobili applicata allo smontaggio dei corpi animali. Grazioli mette a fuoco il devastante impatto ambientale del sistema alimentare basato sulle proteine animali, un sistema inefficiente, inquinante, insalubre. Un capitolo è dedicato alla produzione di soia, causa primaria della deforestazione dell'Amazzonia e altre zone del pianeta. La soia come prodotto prodigio per le sue caratteristiche e qualità nutritive, la cui produzione esplosa negli ultimi decenni però per sostenere l'alimentazione degli animali da allevamento. A questo scopo è destinato ben il 90% del raccolto globale, altro che tofu e tempeh. Capitalismo Carnivoro è attraversato da compassione per gli animali. Nulla viene nascosto e sono citati anche filosofi e sociologi come Carol Adams, Derrida, Melanie Joy. Grazioli ha il merito di affrontare anche la questione umana connessa alle catene di smontaggio. La linea di demarcazione fra macellati e macellatori ovviamente esiste, ma anche i secondi vivono esistenze di serie B, come dimostrano l'enorme turnover, vicino al 100% annuo in molti casi. Grazioli ovviamente non manca di soffermarsi sull'enorme contributo dell'industria alimentare, specie quella carnivora, al surriscaldamento globale, e prende anche le distanze, in ambito scientifico, dalle sperimentazioni con la carne coltivata e con i succedanei di bistecche e hamburger ottenuti con ingredienti vegetali. Nel mirino dell'autrice, capitolo dopo capitolo, paragrafo dopo paragrafo, ci sono gli allevamenti intensivi, bocciati senza appello. Ma Francesca Grazioli ferma il suo discorso, come se frenasse i suoi stessi pensieri al momento di osare. Riconosce che il capitalismo carnivoro va superato e accoglie le posizioni di Carol Adams e della stessa Melanie Joy sulla scomparsa del corpo animale dall'esperienza umana in rapporto all'alimentazione. Si sofferma sul non detto, sul silenzio che accompagna l'imbarazzo di provocare morte pur di mangiare una bistecca, una frittata o bere un bicchiere di latte. Morte di esseri viventi, dei quali riconosciamo lo status di esseri perfettamente senzienti. Grazioli non manca di ricordare i velati, i muggiti, le grida di terrore degli animali al macello o i tentativi di fuga prima dell'ultimo tratto di tunnel verso l'esecuzione. E tuttavia si ferma lì. Fa intendere, fra le righe, di provare nostalgia, chiamiamola così, per il modello preindustriale, con le fattorie e gli allevamenti non intensivi, ma non sviluppa il punto, come pure ci si aspetterebbe dopo le citazioni di Adams, Derrida, Joy. Ecco una concessione che ci pare imbarazzata alle regole del sistema mediatico, politico e ideologico presente. A un certo punto Grazioli cita la scelta veg, lo scrive con l'asterisco, e osserva giustamente che non è questione di scelte personali, ma di un paradigma da cambiare, al quale però fa solo un cenno, come se non volesse osare, timorosa forse di spaventare i lettori che l'hanno seguita fin lì, o magari di fare un passo troppo lungo rispetto alle proprie attuali posizioni, ancora da maturare fino in fondo. L'altra concessione è nel risvolto di copertina. L'editore specifica subito, nelle prime righe. Leggere Capitalismo Carnivoro cambierà il vostro modo di pensare e mangiare la carne. Non vi convincerà a smettere di acquistarla al supermercato. Non vi spingerà a stravolgere le vostre abitudini alimentari e diventare vegetariani o vegani. Fra queste pagine non troverete un manifesto animalista, ma un viaggio nelle zone più oscure del continente della carne. Quasi un disclaimer. Un'excusatio non petita, come se ci fosse la paura di superare le colonne d'Ercole del dibattito corrente sul capitalismo carnivoro e le sue catastrofiche conseguenze. È una rinuncia, a nostro modesto avviso, che rischia di frenare le nuove e necessarie idee, invece di dare loro il massimo slancio. Francesca Grazioli, Capitalismo Carnivoro, Il Saggiatore Editore, 205 pagine, 19 euro. Gabriele Palloni, tosco vegan chef, autore del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, abbiamo chiesto di pensare una ricetta dedicata all'anno che se ne va, il difficile, per certi versi tremendo e per questo indimenticabile, 2022. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. È risaputo che a Capodanno sia di buon auspicio servire le lenticchie a tavola. Si dice che portino soldi, prosperità. Intanto accontentatevi che vi hanno portato una ricettina originale per poterle servire in maniera alternativa. Gli ingredienti per 4 persone per le lenticchie stufate nel bicchiere di riso sono 200 g di lenticchie verdi, una cipolla, una carota, una costa di sedano, 200 g di pomodori pelati, qualche foglia di alloro, olio extravergine di oliva, 200 g di riso tipo originario, 400 ml di brodo vegetale, dello zafferano, un pizzico di noce moscata grattugiata, 50 g di farina di ceci, 50 g di farina tipo 0, 100 g di pan grattato, olio per friggere, sale e pepe. Mettete il riso in una pentola assieme allo zafferano e coprite col brodo vegetale a temperatura ambiente. Mettete il coperchio e fate cuocere a fuoco lento fino a quando avrà asciugato tutto il liquido. Spegnete, aggiustate di sale e pepe, unite la noce moscata e versate un cucchiaio di olio extravergine sulla superficie, quindi lasciate raffreddare. Nel frattempo stufate le lenticchie, affettate la cipolla e tagliate sedano e carota a tocchetti. Mettete tutto in un tegame assieme alle lenticchie, il pomodoro, l'alloro, due cucchiai di olio e coprite con acqua. Aggiustate di sale e pepe e portate a cottura a fuoco lento. A parte preparate una pastella liscia, non troppo densa, stemperando la farina di ceci e quella di tipo 0 con acqua e un pizzico di sale. Recuperate il riso e formate quattro cilindri forati al centro. In pratica dovrete ottenere una sorta di bicchiere. Passate nella pastella, scolate quella in eccesso e delicatamente coprite col pan grattato. Friggete in abbondante olio ben caldo fino a quando risulteranno ben dorati anche all'interno. Quindi fate asciugare su carta per frittura. Farcite vasetti di riso con le lenticchie stufate e guarnite con piccole foglie di alloro o un rametto di timo fresco. Se lo gradite, potete accompagnare con della salsa di pomodoro calda, aromatizzata col basilico fresco, uno spicchio di aglio in camicia e olio extravergine. I'm gonna call you my sweet signorita. I'm gonna leave up the night only with ya. All you have to do is to be ready for some action now. Questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Francesca De Matteis, Valentina Baronti, Anna Granata, Gianluca Masala, Francesco Panier, Gianni Ferrarotti, Gabriele Palloni e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento è fra una settimana esatta, stessa ora, stesse onde. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.